dzisiaj powiem sercu, narodził mi tyma. Imperia, czego mu mocno dwie. Megalant, narodził mnie ty. Diciotto, cento, Ineia. Utrecht, made the rock in Italia. Verenigde Karoji, flow, cash. Hey. Chinezen met kleren, de Verenigde Karoji. Indiërs met rozen, negers met Gucci. En Nederlanders met perfecte beat, oké, man. Ik ben local, maar geen MC die dit door kan. De hele stad, joh, die vloot door mijn muziek. Jongen, jij hebt de zon in de ogen als je nog niet ziet dat je rijmen niet vliegen. Blijf uit de straten, steek in je kamer en kap met dat praten. Hey, je wordt in de gaten gehouden. Yeah, Utrecht uit het land van Nassauwe. We kouwen alleen maar rouwen en nauwe rijmen. Begin niet met rappen, begin te verdwijnen. Eens tussen de tanden, drugs en tekst met brandende handen. Je hoeft het kwaad niet meer te zoeken. Ze staan in de carouge en ik ben de producer. Carugi, riunite la compila, legate la cultura che ci ispira e che ci guida. Se non morsa, non giuriga, io Manigold da vita. Nato troglodita, tengo ormai tra le dita. No rapinatori, noi rap minatori, noi fan promotori, più tra de maori. Ascolta primitivo, e io dalla caverna. Datemi una base, un foglio e una penna. Beat potenziati all'ennesima potenza, dedicata a chi non riesce a starne senza. Io lo maneggiamo, Marpelle e Neia Produzioni. Quindi sempre pronte collaborazioni. E esce la sigla, libertà espressiva. Manigold TV con la crew televisiva. Più che esplosiva, più che espansiva. Usa il nostro suono a porti in una cartina. JJJJ con l'ex Ferriere. You know my per un cielo. Fate terzo Imperia Marcello. Nei luoghi sono a Prino. Raccontiamo aneddoti e la gente sgrana gli occhi. È tutto vero, ma i miei coglioni sono rotti. Quello su cui rido fa venire la pelle d'oca. La mia gente ci trova mentre il mondo trasloca. Spende la troia loca quando ubriaca. La voglia è poca, vado a farmi serata con gli ultimi 2-0 del 181. L'epicentro da Iulo, tutti quanti a fanculo. Uniscite Carugi e piglia in mano una ciappa. Vieni a vedere Fabio che la tira da sta sappa. Scappa finché sei in tempo. M'hanno detto che ho problemi di comportamento. Stai pisciando contro vento. Sono nato Manigold, non è che l'ho scelto. Non stabilisco date, chiamate sarò pronto. Rifugio nel Carugio, provate a indovinare cosa brucio. Manigold di qui, l'unica realtà che c'è qui, qui. Ci trovi sale alla risoluzione, fuori e bimbi. Carugi, vicoli, strade di periferia, campetti, muretti. Uniti per portarti via. Carugi, vicoli, strade di periferia, campetti, muretti. Uniti per portarti via. Carugi Uniti! Mister Fyodor, sono qui a copiare DVD! OPM ADC!